Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio. Non darò soddisfazione ancora alla tua fredda ostilità. Affidiamo tutto agli avvocati che decideranno noi chi siamo stati. Sempre con disprezzo, addirittura diamo un prezzo a questo amore. Racconterai che è solo colpa mia, ti inventerai ancora una bugia, che ero sempre fuori per lavoro e non li ho visti crescere. Ti aspettavo solo un'occasione per andare via. Racconterò che è stata colpa tua, mi inventerò ancora una bugia, che prendevi in giro i miei momenti cominciando a fingere. Siamo andati avanti molto spesso con la fantasia, l'unico obiettivo la tua libertà. Potrai fare quello che ti va di fare. Da domani ci saranno solo dei messaggi freddi scritti col veleno, per farmi sentire in colpa. Solo un po' di tosse forse basterà. Sarà comodo per la tua vita quando un mese intero me li porto al mare. Poi decideranno con chi stare per le feste di Natale. Racconterai con falsa gelosia che dormo già in dolce compagnia, e non trovo mai nemmeno il tempo di portarli al cinema. E ti fermi a raccontare solo mezze verità. Questo cielo solamente il tempo sarà bravo a sciogliere, e ritorneremo buoni amici con degli anni in più. E la nostra guerra forse finirà, civilmente torneremo a ragionare. Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento.